Italia in controluce. Nel pomeriggio di Radio 24, quella che state ascoltando è l'inizio di Italia in controluce, il consueto programma di Radio 24 dedicato alla cronaca, alla politica, allo spettacolo, al costume, il racconto quotidiano puntuale dell'Italia di oggi. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchisi. Scuola e lavoro, di questo parla il reportage di Piera Ceci, il consueto reportage di Scuola in controluce del venerdì. Scuola in controluce. Mondo del lavoro e mondo della scuola devono parlarsi di più. Tanto più ora in un momento di crisi economica è davvero follia pensare che i giovani non trovino lavoro e che le aziende non trovino personale qualificato. È su questa filosofia che si basa Job Orienta, il salone dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in corso a Verona, nell'ambito del quale ieri è stato presentato il rapporto Union Camere sui titoli di studio più appetibili sul mercato. Molte le conferme, ma ci sono anche alcune novità, come ci racconta Domenico Mauriello di Union Camere. Oggi, come già da qualche anno, alcune lauree, alcuni diplomi sono ancora i più gettonati in assoluto. Basti pensare che fra le lauree comunque i due terzi fanno riferimento a laureati in economia e a laureati nei diversi indirizzi di ingegneria, mentre per quello che riguarda i diplomati ancora una volta la fanno da padrona gli indirizzi amministrativo-commerciale, cioè ragionieri e quelli a indirizzo industriale. Quindi ragionieri e studenti ad indirizzo industriale quando escono da scuola, quindi sui 19-20 anni, più o meno trovano lavoro. Esatto, sono quelli che hanno maggiori probabilità di trovare lavoro. È un trend più o meno costante questo, ci sono delle novità? Ci sono delle novità legate anche un po' al momento congiunturale. Sono richiesti appunto determinati tipi di diploma a forte contenuto tecnico, a forte contenuto professionale, perché essendo le imprese manifatturiere proiettate sui mercati internazionali, quelle che in questo momento sono un po' più forti e si sentono pronte anche a irrobustire, a rinnovare più di frequente la compagine occupazionale, allora è chiaro che questi profili a più elevato, ripeto, contenuto tecnico siano i più richiesti. Tipo, faccia qualche esempio. Dal legno mobili arredo a quello meccanico, elettrotecnico, elettronico, senza dimenticare appunto alcune specializzazioni proprie del Made in Italy, dal tessile, abbigliamento, ma anche la stessa filiera del turismo. Quindi insomma gli istituti tecnici industriali vanno per la maggiore dal punto di vista del posizionamento sul mercato. Sempre a patto che però alle conoscenze acquisite sui banchi di scuola si affiancano anche competenze di carattere trasversale, che è comunque una visione anche dei meccanismi di funzionamento di un'impresa, quale può essere conseguita soprattutto attraverso percorsi di alternanza, ed ecco il successo in prospettiva che potrebbero avere proprio i percorsi di ITS, ovvero gli istituti tecnici superiori, la cui domanda specialmente in aree a forte vocazione industriale è da noi rilevata in crescita. Ecco, ma la scuola riesce a soddisfare queste richieste del mondo del lavoro? Guardi, sempre di più le conoscenze tecnico-specialistiche vengono giudicate adeguate da parte delle imprese. Il punto però è che queste conoscenze tecnico-specialistiche che possono essere acquisite soltanto sui banchi di scuola e all'università si stanno affiancando sempre di più, come accennavo, alcune competenze di tipo trasversale che però purtroppo la scuola, per come è impostata anche la didattica, sto parlando soprattutto dell'università, ancora non è in grado del tutto di soddisfare. Stiamo parlando delle conoscenze più pratiche? Delle conoscenze più pratiche, ma di alcune competenze, ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di essere autonomo, responsabile sul posto di lavoro, sono delle competenze che, ahimè, la scuola è ancora troppo abituata al rapporto face to face fra insegnante e allievo e non come ad esempio il sistema anglosassone dove i lavori di di gruppo sono sviluppati sin dalla più tenera età, a questo punto sono delle carenze che quasi i giovani si portano per tutto il percorso formativo e poi, ahimè, i risultati si vedono una volta che si affaccia sul mercato del lavoro. Imprese dunque, nonostante la crisi ancora golosa di studenti, dei tecnici e dei professionali, oppure di laureati in economia ed ingegneria, purché accanto alle conoscenze teoriche abbiano acquisito anche quelle tecniche. E le scuole da questo punto di vista hanno fatto passi da gigante. Secondo uno studio dell'ANSAS, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, sono ormai oltre 5.200 gli istituti in cui si applica l'alternanza scuola-lavoro. Antonella Zuccaro dell'ANSAS. In questi anni stiamo vedendo un netto aumento della partecipazione degli istituti, il 14%, non solo, anche gli studenti, il 26%. Unica nota quest'anno, una diminuzione delle strutture ospitanti, vedi imprese. Cosa sta a significare? Più visite guidate, meno attività di stage di tipo esperienziale. E perché secondo lei tutto ciò? Credo che una delle cause sia dovuta a una questione di mancanza di risorse economiche. Questa esperienza richiede un impegno di tipo organizzativo sia per l'azienda, le imprese, mettere a disposizione dei tutor, delle persone che possano seguire in modo concreto, reale i ragazzi. Nello stesso tempo anche per la scuola è un impegno, quindi un impegno per l'organizzazione. Più funzioni, più ruoli, più insegnanti che a volte devono fare tutti diverse funzioni, ma a volte ad un solo insegnante sono affidate più funzioni. Un dato che mi ha incuriosito: cresce molto l'alternanza scuola-lavoro nei licei. Esatto. E anche di solito si pensa agli istituti tecnici. Esatto. I licei effettuano un'alternanza facendo, per esempio, delle attività presso redazioni di giornali, presso musei, fanno delle attività anche relative a completamento degli scavi archeologici, quindi fanno delle attività in aula come in genere si fa, poi vanno a fare questa esperienza, come dicevo prima, anche presso asili nido, no? Penso al liceo delle scienze sociali, ma anche altri tipi di licei, presso i musei. Quindi insomma un percorso che si è iniziato e che sta procedendo, seppur tra mille difficoltà. Come lo vede lei il futuro? Vedo una partecipazione sempre maggiore da parte degli istituti tecnici e dei professionali, perché sono di fatti stati fin dagli anni del 94 i motori attivi di queste attività fuori dalla scuola. Però i tagli che ci sono stati nelle scuole non hanno di certo giovato. Non hanno di certo giovato, però il fatto di sapere di avere meno probabilmente ha creato delle situazioni di maggiore qualità. E chiudiamo con il commento di Claudio Gentili, responsabile dell'area scuola di Confindustria nel comitato scientifico di Giobbe Orienta. Purtroppo noi soffriamo di mal orientamento o di cattivo orientamento. Negli ultimi 20 anni le imprese italiane, specialmente le piccole, hanno aumentato, anzi raddoppiato, il numero di tecnici, diplomati, istituti tecnici o professionali nelle loro fila, passando da 12 ogni 100 assunti a 22, superando la Germania. Questo è successo in 20 anni. Nello stesso lasso di tempo, cioè in 20 anni, la scuola ha dimezzato l'offerta di tecnici. I licei hanno, c'è stato il fenomeno del sorpasso dei licei sugli istituti tecnici e ben 110.000 tecnici non vengono trovati oggi dalle imprese. Ecco, dicevamo, strumenti importanti, quelli che già esistono, l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato, in particolare per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, insomma è in continua crescita, però ci sono ancora dei nei, se così vogliamo chiamarli. Cresce sì, però per esempio poco al sud, e anche l'attrattiva da parte delle aziende, forse per una questione anche di crisi economica, in qualche modo sta diminuendo? Sì, però io ritengo che questa situazione sia del tutto contingente, mentre nel lungo periodo, nel medio periodo, le imprese hanno esigenza di queste forme di, diciamo, transizione scuola-lavoro dei giovani, e i giovani italiani hanno il diritto ad avere la possibilità di fare esperienze di inserimento professionale più efficaci di quelle sinora utilizzate. In particolare l'apprendistato, che da noi è utilizzato troppo poco, potrebbe diventare nei prossimi anni uno strumento anche per le modifiche fiscali a favore delle nostre imprese, potrebbe diventare uno strumento molto più utilizzato di quanto sia utilizzato oggi. Se guardiamo quanti apprendisti sono in Germania e quanti sono in Italia, il confronto ci fa vedere come siamo molto indietro. Era la seconda edizione di Italia in Controluce e vi ricordo torneremo lunedì alle 6.30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di stretta attualità.